Se solo avessi la DeLorean. Se solo avessi la DeLorean. Per ritornare indietro sui miei passi. Per impedirti di ferirmi come tutti gli altri. Il tempo è solo un'invenzione per vendere orologi alle persone. Mettere i culi sopra i calendari, la data di scadenza sopra i desideri. E ricordarsi di non aspettare per smettere di fumare. Se solo si potesse fare, se solo si potesse fare. Io adesso me ne vado al mare, non ho più voglia di pensare che ero nella solitudine, signorina irraggiungibile. Ma questi giorni sono tutti uguali, dannatamente uguali, senza te. Ma quanto consuma la DeLorean? Mi venderò i piedi sopra Dolly Fan. Lo spazio è solo un'illusione, lo piego come fosse di cartone. E tutto mi riporta quella sera quando ti ho detto guarda e impara come lavora un kamikaze, come lavora un kamikaze. Io adesso me ne vado al mare, non ho più voglia di pensare che ero nella solitudine, signorina irraggiungibile. Ma questi giorni sono tutti uguali, dannatamente uguali. È grande Giove, fuori piove, il cuore fa da parafulmine. Ho una proposta impossibile, ti va di fare un giro nel domani, rimettere le foglie sugli alberi e scopriremo che siamo felici, felici io e te. Magari scopriremo che siamo nemici. Io e te. Io e te. E adesso i giorni sono tutti uguali, dannatamente uguali. Non si muore per amore, ma senza non lo so che vita è. I giorni sono tutti uguali, dannatamente uguali, senza te. Se solo avessi la DeLorean. Se solo avessi la DeLorean. Se solo avessi la DeLorean.